English Bit di Giulia Crivelli. Hearing. What to expect from the O.J. Simpson parole hearing. Cosa aspettarsi dall'udienza di O.J. Simpson per rivedere i termini della libertà vigilata? Il Washington Post titolava così il pezzo di cronaca sulle vicende giudiziarie dell'ex campione di football, che nel 1995 fu assolto dall'accusa di omicidio dell'ex moglie e del suo compagno in uno dei processi più controversi della storia americana. Nel 2007 però fu arrestato e condannato per una serie di reati, a cominciare da furto, rapina e associazione a delinquere. La parola che ci interessa è hearing, sostantivo che viene dal verbo to hear, irregolare, to hear, heard, heard, che significa in gergo legale udienza, ma vuol dire anche udito o ascolto. She has a poor hearing, il suo udito non è buono. His views may be unfashionable, but he deserves a hearing. Le sue opinioni possono essere antiquate, ma merita ascolto. Hearing aid è l'apparecchio acustico, mentre hearing dog è un cane che ha ricevuto un addestramento particolare per aiutare le persone sorde, avvertendole dei suoni e rumori che non riescono a sentire. Vediamo poi parole. È un false friend perché non ha niente a che vedere con la traduzione parola, anche se, per confonderci ulteriormente, in italiano si potrebbe dire libertà sulla parola. La definizione esatta è permission that is given to a prisoner to leave prison before the end of their sentence on condition that they behave well. Permesso di uscire prima della fine del periodo di detenzione a patto che il condannato rispetti alcune regole. She was released on parole. Fu liberata sulla parola. Oltre che sostantivo o aggettivo, come nel caso del titolo del Washington Post, può essere verbo. She was paroled after 2 years. Fu liberata dopo 2 anni. Sempre interessante il verbo to accept, regolare. Molti usi sono simili all'italiano. We are expecting a rise in food prices this year. Ci aspettiamo un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari quest'anno. E naturalmente, she's expecting a child. Aspetta un bambino. Ma attenzione alle sottigliezze. Who's eaten the cake? I expect it was Tom. Chi ha mangiato la torta? Suppongo sia stato Tom. You can't expect me to respect you after what you've done. Non puoi pensare che io ti rispetti dopo quello che hai fatto. E chiudiamo con Great Expectations, uno dei più famosi romanzi di Charles Dickens, che in italiano è stato tradotto in Grandi Speranze.